Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Well, I haven't finished those up yet, but, you know, I figured since they weren't due till... Hello? Hello? Anybody home? Oh. Think, McFly. Oh. Think. I gotta have time to get them retyped. Yeah. Do you realize what would happen if I handed my reports in your handwriting? I'll get fired. You wouldn't want that to happen, would you? Would you? Oh, of course not, Biff. Now, I wouldn't want that to happen. Now, look... I'll finish those reports on up tonight, and I'll run them on over first thing tomorrow, all right? Cominciata già da due brani e da uno sprazzo cinematografico, la seconda parte di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni tutti i giorni qua, sulle frequenze di Rock FM fra le 19 e le 20, Giulio Tradio rockfm.com, trasmissione che al suo interno non ha solo musica, non ha solo sprazzi cinematografici, ma anche incipiti letterari, e anche quelli stanno per arrivare. Ma a proposito della musica che vi siete ascoltati, abbiamo aperto con Meat Puppets a rifare Everybody Hurts da parte degli R.E.M. Ci eravamo ascoltati qualche mese fa un tributo a 10 anni dall'uscita di OK Computer dei Radiohead, in cui veniva utilizzato nel nome di quel tributo il numero 10 in cifre romane, la X, e qui invece abbiamo il 15, X e V, per ricordare Automatic for the People a 15 anni dalla sua uscita. Per la precisione uscì il 10 di maggio del 1992, un tributo ai REM a cui partecipano diversi artisti, oltre ai Meat Puppets che già ci siamo ascoltati, anche i Rogue Wave, i Blitz and Trapper, Farabye, Lionheart, Oxford Collapse, The Veils e così via. Ci ascolteremo sicuramente altri pezzi da questa compilation. Poi una formazione fra le tante che in questo periodo in un modo o nell'altro hanno come riferimento Jesus and Mary Chain. Per esempio, fra quelle recentemente ascoltate in Eclettica c'erano The Manhattan Love Suicides. Questi si chiamano Ringo Death Star, evidentemente c'è un tributo nel nome della formazione, vengono da Austin, Texas e sono appena usciti con un esordio in formato EP, dal quale ho estratto Sweet Girl. E si prosegue invece con una formazione scozzese che proviene da Glasgow, per descrivere la quale vado a scegliere degli estratti dalla recensione che avevo letto qualche tempo fa su Pitchfork. Belle e Sebastian sono di Glasgow, ma i Frightened Rabbit non sono per niente come Belle e Sebastian. I Camera Obscura sono di Glasgow, ma ai Frightened Rabbit sicuramente non piacciono. I Mogwai sono di Glasgow, ma sicuramente ai Frightened Rabbit non piacciono. Sing the Grace è il titolo del loro album, dal quale in eclettica ci ascoltiamo The Grace. Quando Garibaldo, quel giorno da Chiodi, si beccò la pallottola in fronte, un forellino capocchioso, nemmeno un foruncolo, mentre stramazzava nel bacinio della piazza, proprio davanti allo Splendor, volle avere l'ultima parola. Ma invece la lingua liberò un gorgoglio squaccheroso che udirono solo i pochi che gli stavano vicino. Abbasso re! Il sasso gli sdrucciolò di mano e rotolò fino al rigagnolo della fontanella sulla piazza. Sul viso gli rimase ghiacciato un sorriso furbesco di accidenti a me, perché aveva fatto in tempo ad accorgersi, nel breve tragitto dal monumento alla polvere, che la nebbia della morte gli aveva confuso proprio l'ultima frase. La pallottola che gli aveva cercato la fronte non usciva da un moschetto della Guardia Regia. Il re ormai aveva fatto fagotto e vigeva la Costituzione della Repubblica fondata sul lavoro. Questo era l'incipit di Piazza d'Italia, di Antonio Tabucchi. The police are coming. Grab your coats and things. Tell the kids the queen is cold and now it's time to leave. What an unseen picture to find Dopo la Scozia dei Frightened Rabbit siamo ritornati negli Stati Uniti, sia per il brano già ascoltato che per quello ancora ad ascoltare. Quello già ascoltato è un estratto dal secondo album di Luke Temple, Family Vacation, è il titolo del pezzo. Quello da ascoltare invece è di Octopus Project, un quartetto texano in uscita con un album per la Peekaboo Records, il pezzo si intitola Track. Jennifer Parker called you twice. I don't like her, Marty. Any girl who calls up a boy is just asking for trouble. Oh, Mother, there's nothing wrong with calling a boy. I think it's terrible. Girls chasing boys. When I was your age, I never chased a boy or called a boy or sat in a parked car with a boy. Then how am I supposed to ever meet anybody? Well, it'll just happen. Like the way I met your father. That was so stupid. Grandpa hit him with the car. It was meant to be. All of these things I try to do. All of my rage I aim at you. Sometimes my eyes go wild and I feel like I'm lost in time. Sometimes I raise my head and look to the sky for consolation. Cold. And I spend all of my time. pensai, quel tizio non arriva più. E poi pensai, mica posso chiamarlo tizio, è un grande poeta, forse il più grande poeta del XX secolo. È morto ormai da tanti anni, devo trattarlo con rispetto, meglio, con tutto il rispetto. Ma intanto cominciavo a sentire fastidio. Il sole dardeggiava, il sole di fine luglio, e pensai ancora, sono in ferie, stavo tanto bene là da Zeitau, nella casa di campagna dei miei amici. Chi me l'ha fatto fare di accettare questo incontro qui, sul molo? E adocchiai ai miei piedi la mia ombra, e anche lei mi parve assurda e incongrua. Non aveva senso, era un'ombra corta, appiattita dal sole di mezzogiorno. E fu allora che ricordai, lui aveva fissato per le 12, ma forse aveva voluto dire le 12 di notte, visto che i fantasmi appaiono a mezzanotte. Questo era l'incipit di Requiem di Antonio Tabucchi. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 1, volume numero 1, indice, Beirut, PJ Harvey, Bob Dylan, remixato da Mark Ronson, We Are Scientists, a rifare Sigur Rós, Battles, Phosphorescent, Meat Puppets, a rifare gli R.E.M., Ringo Death Star, Frightened Rabbit, Luke Temple, The Octopus Project, Icon Crash, musicista finlandese, il cui nome all'anagrafe è Jesse Valo, fratello di Villa. Shocking Pinks. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.